Pensate agli elementi come a coppie complementari, terra e aria, fuoco e acqua. In ciascuna coppia i due elementi si dividono equamente l'energia per mantenere l'equilibrio naturale, contribuendo insieme al 100% del bilanciamento. Se la terra contribuisce per un quarto, quale percentuale resta all'aria per raggiungere il 100%?